vais. Vado dove ci porterà mai questo treno, partito da non so dove, ma dove arriveremo? Forse a Roma o Parigi, forse a Pechino, o forse solo a 2 centimetri dal cielo. Mano nella mano tu, stammi vicino, fammi sentire il caldo del tuo seno. La strada è lunga, più lunga di questo treno che sta viaggiando spedito verso il sereno, verso il sereno. Dove ci porterà mai questo treno? In mezzo ai boschi, nei campi, in mezzo al grano, lontano da quelle storie piene di veleno, lontano oltre i confini, lontano, lontano. Mano nella mano tu, stammi vicino, fammi sentire il caldo del tuo seno. La strada è lunga, più lunga di questo treno che sta viaggiando spedito verso il sereno, verso il sereno. Sento il profumo del mare, dell'arcobaleno. Sento la pioggia cantare, il profumo del fieno. Tutte le rose del mondo sono in questo treno che sta viaggiando spedito verso il sereno. Mano nella mano tu, stammi vicino, sentire il caldo del tuo seno. La strada è lunga, più lunga di questo treno che sta viaggiando spedito verso il sereno, verso il sereno. Mano nella mano tu, stammi vicino, sentire il caldo del tuo seno. La strada è lunga, più lunga di questo treno che sta viaggiando spedito verso il sereno, verso il sereno.